Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera andiamo in Emilia-Romagna dove ERA, l'utility locale anche una delle più grandi in Italia, sta applicando su larga scala alcune delle tecnologie più avanzate esistenti oggi per la separazione del cosiddetto rifiuto secco. Parliamo di un rifiuto indifferenziato che tuttavia può essere differenziato a valle della raccolta. Chiara Albicocco ne ha parlato con Filippo Brandolini che è presidente di ERA Ambiente, sentiamo com'è andata. Il gruppo ERA gestisce 5 piattaforme, 4 preesistenti che sono state ristrutturate e questa nuova di Bologna. Generalmente queste piattaforme erano organizzate attraverso processi di selezione manuale, quindi le impurità e le varie tipologie di rifiuti venivano selezionate attraverso appunto l'intervento di operatori che manualmente toglievano le impurità e mettevano insieme la plastica con la plastica, la carta con la carta. Quindi c'erano proprio delle persone davanti a questi rulli che manualmente selezionavano il rifiuto secco. Manualmente selezionavano il rifiuto secco. Qual è stata l'innovazione? L'innovazione è stata introdurre in questi impianti il sistema dei lettori ottici. Quindi utilizzare questa tecnologia molto innovativa, anche se già consolidata, che consente di selezionare il rifiuto per tipologia, quindi carta con carta, cartone con cartone, vari tipi di plastica a seconda di come si programmano le macchine, e in questo modo siamo in grado di migliorare sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo l'effettivo riciclo dei rifiuti. Dunque, come funziona? Voi praticamente attraverso questi sensori ottici in qualche modo raggiungete il rifiuto attraverso dei raggi luminosi e attraverso che cosa? Il colore, il riflesso che loro rimandano, automaticamente vengono selezionati i rifiuti? Sì, ci sono degli spettrometri dotati di sensori che riconoscono i materiali secondo le loro specifiche caratteristiche spettrali della luce riflessa. Questo sensore basato sullo spettrometro per la luce visibile riconosce i materiali sulla base delle caratteristiche cromatiche specifiche, quindi sulla base delle varie caratteristiche fisiche e cromatiche questi lettori consentono di riconoscere i materiali e attraverso poi degli altri sistemi di separazione indirizzare le varie tipologie di rifiuti nella giusta linea per poi il successivo. Cioè una volta riconosciuto viene automaticamente inviato, indirizzato al contenitore di appartenenza. Di appartenenza, dopodiché ci sono sistemi di pressatura e imballaggio che consentono appunto di avviare i rifiuti alle successive destinazioni. E poi ci sono anche dei sensori balistici, cioè proprio attraverso, come dire, il peso. Poi ci sono, nell'impianto di Bologna è stato introdotto questo sistema balistico che consente di separare la plastica a seconda del peso e della consistenza, in maniera tale che anche qui riusciamo a migliorare la separazione e il successivo riciclo dei rifiuti. Il separatore balistico è in realtà un enorme cilindro rotante che è dotato di fori che consente di separare automaticamente la plastica in base alla densità e al peso. Insomma, la rotazione del cilindro impone un'accelerazione ai materiali in maniera tale da poterli selezionare. I più leggeri percorrono una distanza inferiore e i più pesanti una distanza invece più lunga, traiettoria più lunga. Ecco, una selezione così efficace ovviamente porterà a dei risultati, abbiamo detto 100.000 tonnellate l'anno, quali sono i vantaggi? Questi impianti, come dicevo prima, consentono di migliorare sia in quantità che in qualità i rifiuti raccolti in maniera differenziata, perché sono in grado di trattare in maniera più veloce volumi di rifiuti più importanti, 3-4 volte superiori a quello che poteva essere la selezione manuale, e tecnologie così complesse e raffinate consentono appunto di migliorare anche la qualità della selezione del rifiuto. E non trascurabile anche il miglioramento delle condizioni di lavoro dei vostri operatori. Volevo sottolineare anche questo aspetto che questo consente anche un miglioramento delle condizioni di lavoro. Da selettori manuali i nostri addetti in questi impianti passano a controllori, manutentori di impianti anche, come dire, tecnologicamente avanzati e complessi. Bene, grazie a Brandolini di ERA Ambiente, grazie a Chiara Albicocco, appuntamento a domani.